have some explanation for that. We have none. Don't worry. Continue your program. Oh boy, it's really something super fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger. We know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, this guy Riggs should, pretty spectacular. God, what is that there? That's Roger, hollow. That's what the hell is that? Go tango. Tango. There's kind of light there now. Roger, we got it. We've marked it. Who's communication? Bravo tango. Bravo tango. Don't get the bell. Get the bell. Siete così ancorati ai vostri preconcetti, che sono non solo borghesi, ma borghesi a un livello planetario, direi, nel senso, provinciali, noi provinciali dell'Orsa Minore, no? Buonasera. Iniziamo proprio dall'inizio, sì, dall'inizio dell'inizio. Da dove veniamo? Io personalmente da Conversano. Tutti avremmo sentito parlare sicuramente di Nibiru. Questo pianeta ha un'orbita particolarmente strana all'interno del nostro sistema solare. Infatti il suo periodo di rivoluzione è di 3600 anni. Ed è poco o tanto? Tanto. Allora, c'è una comunità di scienziati che sentenzia per tutto il tempo e per tutto il corso della storia. Questi a un certo punto decidono che una cosa è un pianeta e che poi ad un certo punto invece non lo è più, e quindi non so, io noi siamo molto critici. C'è qualcosa che non torna. C'è qualcosa che non torna, esatto, c'è qualcosa che vogliono nasconderci. L'oro del Pacifico l'hanno preso? L'hanno preso, però era una vena, il famoso oro del Pacifico. L'oro del Pacifico, però a quanto pare era una vena non così florida, non così. Hanno sbagliato. No, non è che hanno sbagliato, era poco, semplicemente in quel punto, e hanno mandato una seconda spedizione e hanno trovato un altro giacimento d'oro massiccio nel centro dell'Africa e hanno stabilito un'altra colonia mineraria lì. Praticamente l'oro serviva agli Anunnaki per schermare la loro già fragile atmosfera. Attraverso un'operazione effettivamente di bioingegneria, riescono, o comunque scelgono, di creare una razza ibrido fondamentalmente tra quello che era l'Homo erectus e loro stessi. E quindi vediamo come ad un certo punto, impiantando uno spermatozoo, come dire, una cellula mi è spiazzato. Una cellula feconda maschile annunaca all'interno di un ovulo invece di Homo erectus, vabbè, quindi terrestre, e poi fatta incubare all'interno di una annunaca. È una cosa particolare. Vediamo che gli annunaki sono dei giganti, sono enormi, sono umanoidi e assomigliano a dei medio orientali enormi. Però Nibiru, Anunnaki, bioingegneria tra Anunnaki e Homo erectus, esseri umani, che se non state capendo cosa sta succedendo non siete gli unici. Non cambierò per voi. Panspermia. Panspermia per noi. Gesù era sicuramente un Elohim. Vabbè, oh, magari erano 11, sì, sono un cazzo io, non lo so, o 10 o 11, boh. È pseudoscienza. Il monito è il seguente: dovete guardarvi a vicenda le spalle da un qualcosa che è però dentro di voi. Cari radioascoltatori, abbiamo già parlato di fede e di credenze. Sì. Bene. Io credo. Non ci vuole niente a cavalcare un razzo. Nevada, se non sbaglio. Sì, Nevada sicuramente. Chi non ha mai assaporato il brivido della propulsione? Retroingegneria. Io vorrei che mi prometteste di non avere paura. Cosa credete che sia la fede? Qualcuno di noi tra gli esseri umani sa la verità e qualcun altro no. Take this planet, shake it round. 9 velivoli extraterrestri. Parliamo di motori ad antimateria, parliamo di spostamento, della possibilità di spostarsi all'interno dello spazio quasi pari alla velocità della luce, ok? Sì, una sorta di wormhole, che però non è proprio un wormhole, ma è piuttosto una sorta di autostrada spazio-temporale. Questo per me è un dato di fatto. Si crea una distorsione e si va a creare una sorta di distorsione proprio nel campo gravitazionale che si crea intorno alla navicella. Dovreste vedere la sua espressione. Nobody gonna travel second class, there'll be equality and no suppression of minorities. Ma fissiamoci sulla zona inguinale. Riesco a rilevare a livello empatico che a lui non piace stare sotto i riflettori, come del resto anche a me. Arriverà moltitudine non si erano mai viste code tanto grandi, tanto lunghe, tanto grandi, tanto lunghe. Moltitudine, moltitudine, mamma mia che festa! Cercate di seguirmi. L'amore porta alla vita, l'odio porta alla morte. Siamo su un peschereccio, sì. E siamo al largo della Norvegia, nel silenzio della notte artica e glaciale. Vediamo una luce. E non capiamo bene all'inizio se è nel cielo o nel mare, perché il cielo e il mare si confondono. Questa luce, senza generare alcun splash, si immerge nelle profondità marine. OVNI o UFO o insomma ci siamo capiti. Frequentatori del mare. Ci addentriamo in una situazione piuttosto bagnata. Ogni anno probabilmente si scoprono nuove specie dalle profondità del mare. E queste sono tutte specie spiegabili attraverso il modello darwinista, ma... Sì, certo, sì. Ma forse c'è qualcosa che non rientra in questo modello. Provate a smentirmi. Ricchi europei borghesi. Una sorta di linguaggio molto simile a quello dei delfini. Questi schiocchi acutissimi, no? Non so se ci avete presente, tipo... Ogni cultura che sia abbastanza antica contiene la venuta di un dio pesce, a un certo punto. E questo è emblematico, secondo me. Mostri marini, tritoni, sirene, mermaids. La sirena vampiro. Non solo, parlano tra di loro e con, forse chissà, con noi anche. In questo modo assomigliamo molto di più a un dugongo che a un cervo. L'hai mai visto un dugongo? No, infatti. Ecco. Io non sono sicuro neanche di essere vivo, sinceramente. Inconoscibile. Chi è che sta giocando con chi? Fate in modo che l'acqua non vi controlli e in questo modo potrete controllare l'acqua. E parlate come i delfini. Scusate, ma scientificamente, no?

o alla fine anche gli alieni avranno sentimenti. Volevo dire guarda che scudi. Guarda che scudi lucenti. Io penso che sia l'inizio di un'escalation. Un'escalation di avvistamenti, un'escalation di abduction, un'escalation di interazioni. USAF, che è un acronimo che sta per United States, non me lo ricordo bene che cazzo vuol dire USAF. Nel Nevada, se non sbaglio, anche era questa qui. Dove? Guarda caso. Nel Nevada? Nel Nevada, se non sbaglio, sì. Dove testimonia il fatto che c'era, non so, tipo 120 testate missilistiche nucleari all'interno di questa base e in tre quarti d'ora di tempo 120 testate missilistiche sono state disattivate, non da noi. Io vorrei fare un focus e riflettere su quella che è la funzione delle piramidi. Allora, sì. No, è importante. Certo. Le piramidi servono a ottenere la vita eterna. E sono sparse per tutto il pianeta, perché non ci sono solo in Africa del Nord, in Africa centrale, in Europa e in Sud America e in Nord America, in Oceania e in Antartide. Ma ci sono anche in fondo al mare. È totalmente inerente. Sono state rivelate e, come dire, notate strutture analoghe anche all'interno di Castel del Monte. Sì, infatti la data della nascita della civiltà va totalmente rivista. Certo, e la trasmigrazione dell'anima avveniva attraverso l'acqua. C'era una sorta di impostazione simile a quella egizia, nel senso che c'era un comando alieno di una situazione di civiltà umana non così progredita. I nostri dèi, gli alieni. Cerchiamo sempre di andare oltre, fuori da noi, quando invece basterebbe fare un piccolissimo passo dentro. Per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante, che si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto. Diceva extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a cercare, voglio un pianeta su cui ricominciare. È stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. I cielo un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. Terra da esplorare, e dopo la terra e il mare, un pianeta intero con cui giocare. E lentamente la consapevolezza, vista d'una dolce sicurezza, l'universo è la mia fortezza. Oh extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a cercare, voglio un pianeta su cui ricominciare. Si sente crescere dentro l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato, che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare. E dice extraterrestre, portami via, voglio tornare indietro a casa mia. Extraterrestre, non mi abbandonare, voglio tornare per ricominciare. Oh extraterrestre, portami via, voglio tornare indietro a casa mia. Oh extraterrestre, non mi abbandonare, voglio tornare per ricominciare. La Luna molto spesso e volentieri, anzi, è messa in disparte dalla sovrabbondante luce diurna del Sole. Questo è un trend che deve finire. Vorrei fare un grande saluto a tutti i radioamatori e le radioamatrici. Il primo allunaggio, o cosiddetto tale. Fa caldo. In quella calda domenica succede o non succede qualcosa, quindi va in diretta questo fantomatico filmato o questa fantomatica ripresa fatta da chi? Kubrick. Due importanti episodi. Uno di questi avviene, per così dire, a metà strada più o meno del viaggio di andata verso la Luna. Tutti e tre vedono chiaramente qualcosa fuori dall'oblò che li sta seguendo. È un oggetto. È cangiante. Come se fosse, viene descritto in qualche maniera come una sorta di pala da discoteca. Anni d'oro, gli anni 80, certo, ci hanno regalato cose come i Van Halen. questo secondo episodio avviene invece sulla superficie lunare e praticamente i due astronauti che sono sulla superficie lunare avvistano non solo un oggetto non identificato che prima è in volo e poi a terra, ma poi delle figure umanoidi vere e proprie. La luna è cava, forse. Lasciatemi ogni parentesi necessaria. Hanno trovato gli alieni sulla luna. Sulla luna Apollo 21 trova le tombe degli alieni. Popolo in testa, le tombe? Le tombe? Le tombe. Nominalmente finisce al numero 17, ma tutti sanno che in realtà molto probabilmente è andato avanti fino al 21. Le tombe hanno più che una forma, sembrano degli esoscheletri. Dentro c'è il corpo, perché morto. A quanto pare sì, però è congelato. Sembra una sorta di ibrido tra un essere umano e un grigio. Ha questa pelle rossiccia, un po' da indiano d'America, ok? Caro maestro, sulla Luna abbiamo scoperto che è un satellite artificiale. Perché artificiale? Perché in qualche modo può essere stato messo lì. Da chi? Da chi? Da noi stessi nel futuro, da noi stessi nel passato, da delle razze aliene nel futuro, da delle razze aliene nel presente, da delle razze aliene nel passato. Diciamo, potrebbe essere questo, che la Terra prima della Luna si è scontrata con un altro oggetto che faceva parte del sistema solare che chiamano Tiamat. Gli antichi sumeri. Gli americani non sono stati i primi ad arrivare sulla luna. I rettiliani, secondo te, quanto ci sono, quando ci sono stati sulla luna? Ci sono state forse le sirene prima? Sotto c'è un sistema di monitoraggio alla Matrix che ci sta monitorando, forse. Sciacquare una pietra curativa o comunque con dei poteri sotto un torrente di acqua pura durante una notte di luna piena le neutralizza, la rende neutra e quindi la libera di tutte quelle che erano le energie estranee incapsulate prima. Certo. Ci mettiamo la firma. La luna nera. Non saprei.

Siete i migliori astronauti di sempre! Pronti per la prossima missione? È l'ora di esplorare la nave! Sì! Sì! Sì! Sì! Yeah! Esploriamo lo shuttle. È divertente, presto va. Noi formiamo un grande team. C'è tanto da vedere, oh sì, sì, sì. Aspettateci, non andate via. Come sono veloci gli astroragazzi. Noi saremo astronauti. Su uno shuttle android. Prossima missione, ragazzi. Siete tutti pronti al lancio? Sì, andiamo! Cinque, quattro, tre, due, uno, lancio! Andiamo nello spazio, sul raso spaziale, tra le stelle, sulla luna, sul raso spaziale. Ai comandi, è l'italo spazio, siamo astronauti, un spettacolo, noi saremo astronauti, su uno shuttle andrò. Ce l'abbiamo fatta! Yeah! Che incredibili astronauti! Siamo così orgogliosi di voi! Tango, tango. There's kind of light there now.